personaggi che il nostro paese ama raccontare, anzi diciamo una parte del paese, quella che è dominante sulla cultura del pensiero unico, ama raccontare, e ci sono invece personaggi dimenticati, personaggi che creano imbarazzo perfino nel ricordo. Ecco, io oggi voglio parlare proprio di uno di questi personaggi, uomo di grande carica umana, uomo di grande coraggio, sicuramente uno dei più grandi italiani nel mondo, un grande scrittore, un vanto incommensurabile per tutti noi. Però, ripeto, in pochi si ricordano nome, cognome e opere, e capirete perché. Abbiamo detto, lui principalmente è uno scrittore, per lui devono parlare i suoi libri, la sua opera più famosa la conoscono tutti, è stata tradotta in oltre 130 lingue, è lo scrittore italiano più tradotto di sempre, uno dei più venduti al mondo. Appena vi dirò una cosa direte anche voi, sì, è certo, però nonostante la grande popolarità dei suoi scritti, di lui si sa veramente troppo poco, non si ricorda mai la sua immensa opera giornalistica, il suo valore di uomo che non si è mai asservito al potere. Oggi abbiamo un protagonista veramente grandioso, raccontiamo il mitico Giovannino Guareschi, padre di Peppone e Don Camillo, autore della popolarissima saga del Mondo Piccolo, 347 racconti sulle avventure dell'orgoglioso e robusto parroco di campagna Don Camillo e del suo eterno antagonista, l'agguerrito sindaco comunista Peppone, e i due sono stati portati alla ribalta internazionale con gli splendidi film interpretati dai mitici Gino Cervi e Fernandella, ambientati a Brescello. Non dovete voi correggere gli errori dei vostri penitenti? Il nostro dovere. Bene, e allora ecco qua. Cittadini! Cittadini, nel mentre che noi salutiamo la gloriosa affermazione della nostra lista, Gesù, non rispondo più dalle mie azioni. Ne rispondo io, fai il tuo dovere. Così voi mi fate lavorare per la Gitprop. Tu lavori per l'ortografia e la sintassi che non hanno colore politico. Allora vieni qui con la tua letteratura. Ecco. Bene, bene. Ma c'è una cosa qua che non capisco. Là dove io avevo scritto, noi abbiamo l'intenzione di far ampliare l'edificio scolastico. Voi avete scritto, noi abbiamo l'intenzione di far ampliare l'edificio scolastico e di far riparare il campanile della chiesa. Perché? È una questione di regole grammaticali. Ah, è una fortuna per il vostro campanile che voi abbiate studiato il latino, così sfuma la speranza che vi crolli sulla testa. Bisogna inchinarsi alla volontà di Dio. Alla salute. Salute. Peppone e Don Camillo li conoscono proprio tutti nel corso degli anni, dal primo dei romanzi di Guareschi che risale al 1948. Loro sono diventati dei personaggi veri e propri, percepiti come uomini in carne e ossa. Le loro avventure divertenti, il loro perenne conflitto, sempre basato su una rivalità particolare, rispetto reciproco, grande affetto, tutto questo li ha resi popolarissimi ovunque. Non solo i libri che li vedono protagonisti hanno venduto qualcosa come 20 milioni di copie, i film hanno fatto il giro del mondo, ma ci sono addirittura oggetti che si chiamano Don Camillo, tipo un lambrusco, un cappotto da donna, un gladiolo viola a cui è stato dato il suo nome, e c'è anche una marca di sigari Peppone, ristoranti di cucina italiana sparsi un po' ovunque nel mondo che hanno il loro nome. La misura del successo, lo sapete bene, la misura della popolarità è data dal suo ingresso nel mondo del commercio. Però se chiedete alla maggior parte delle persone che magari conoscono a memoria le battute di Peppone e Don Camillo, se chiedete il nome dell'autore, magari potrebbero anche non conoscerlo, magari potrebbero stupirsi che dietro ai film ci sia uno scrittore che quei personaggi li ha inventati dal nulla. Noi oggi vogliamo colmare questa lacuna, questa incredibile ingiustizia compiuta deliberatamente ai danni di Giovannino Guareschi, soprattutto ai danni del Guareschi satirico a causa delle sue opinioni che erano in conflitto col regime politico dell'epoca, con un'Italia che diventa una repubblica quando lui si dichiara apertamente monarchico, un'Italia che vira verso il pensiero unico di sinistra quando lui è un fervente anticomunista, e lui è anche uno che non sa stare zitto, è un uomo che paga a caro prezzo le sue idee controcorrente, paga con la prigione, e insomma era uno che cantava fuori dal coro. Ce ne vorrebbero di personaggi così ai giorni nostri. Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi nasce il 1 maggio 1908 a Fontanelle di Roccabianca, siamo nella bassa parmense, la famiglia è una famiglia della classe media e il padre Primo Augusto è un commerciante, ha un emporio ciclistico, la madre è la maestra del paese, e già c'è un po' la prima beffa nel giorno della nascita, perché nasce proprio il 1 maggio, giorno della festa dei lavoratori, insomma, che poi viene egemonizzata da altri, viene chiamata la festa rossa in quelle zone, bagno di entusiasmo per migliaia di operai che arrivano da ogni parte della provincia di Parma, vessilli rossi, folla inebriata di fede proletaria che canta l'Internazionale, cose del genere. E Giovannino ha questo ricordo dei suoi compleanni fin da quando è piccolissimo, è un bastian contrario, però non gli piace l'omologazione, diventa subito anticomunista. Lui ha scherzato molto sul suo nome, Giovannino, lui si chiamava proprio così, non era un diminutivo, Giovannino, però poi diventa un omone grande e grosso, con i baffoni lunghi e folti che porterà sempre, va a somigliare, almeno nell'immaginario collettivo, a Peppone, il sindaco comunista del quale parleremo, insomma aveva un nome che faceva cazzotti col fisico, e in realtà tutta la sua persona sarà sempre una grande sorpresa, qualcosa di assolutamente inaspettato. Parte bene, è un ottimo studente, intelligentissimo, bravo nella scrittura, inventa storie già da piccolo, si distingue negli studi, entra al Convito Nazionale Maria Luigia di Parma, che era un collegio per nobili che offre vitto alloggio però anche agli studenti che hanno difficoltà economiche purché siano meritevoli. Nel 22 cui lui conosce e diventa subito amico di Cesare Zavattini, e lui era lì per fare l'istitutore, per pagare gli studi all'università, è una conoscenza che si rivelerà fondamentale negli anni successivi. E Zavattini doveva stillare i giudizi degli allievi. Ascoltate cosa scrive di Guareschi, che è intelligente ma anche indisciplinato. 20 gennaio 1925. Troppo spiritoso. La sua verve è spesso inopportuna. Le sue mancanze sono conseguenza di irrefrenabili doti umoristiche. Veramente intelligente, ottiene nello studio, con minimi mezzi, i massimi risultati. 13 maggio 1925. È un caposquadra pericoloso. Per fare dello spirito, casca facilmente nell'indisciplina. Crede che la sua ottima posizione di scolaro sia il salvacondotto di non rare licenze. Insomma, Zavattini ha già capito tutto, intelligenza vivissima, poca disciplina, battuta sempre pronta, bastian contrario, se tutti vanno in una direzione, lui per partito preso va in quella opposta, ha paura del gregge, ha paura delle pecore, vuole pensare con la sua testa, quando si è così il prezzo da pagare è molto alto nella vita e Guareschi lo pagherà, nessuno gli farà sconti. Nel 1925 Giovannino non ha ancora 17 anni e gli capita un evento drammatico che cambierà tutta la sua vita. L'attività del padre fallisce e la famiglia Guareschi rischia la miseria, si salva solo grazie al lavoro della madre, insegnante elementare, e in quanto maestra la madre ha diritto a un alloggio per sé e per la sua famiglia all'interno dell'istituto scolastico che è a Marore, un paesino alle porte di Parma. E Giovannino deve lasciare il collegio, deve cercarsi un lavoro, continuare gli studi da esterno, il suo rendimento scolastico ne risente subito, viene rimandato a settembre in storia e latino, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a prepararsi, ma naturalmente in famiglia non hanno soldi per pagare un professore, allora va dall'unica persona che può dargli una mano gratuitamente, è il parroco di Marore, è l'arciprete Lamberto Torricelli, è un omone alto 2 metri con le mani grandi come 2 badili, è un prete che si comporta importa poco da prete tradizionale, uno che va in giro in bicicletta, che mena le mani se i ragazzini non studiano il catechismo. E non so se la sua descrizione vi ricorda qualcuno, ovviamente sì, perché lui è il primo ispiratore della straordinaria figura di Don Camillo. E sì, perché tutti i personaggi che Giovannino Guareschi inventa sono ispirati da gente vera, da quelli che lui conosceva. Questo sicuramente è il segreto della sua immensa popolarità. Ascoltate la figlia Carlotta Guareschi che sottolinea da dove prendeva spunto suo padre. Dalla realtà, perché inventava dei personaggi talmente veri che poi la gente li credeva veri. A Fernandel qualcuno ha chiesto di sposarli. Erano personaggi che lui aveva conosciuto nella sua infanzia, come Faraboli che gli ha ispirato la figura di Peppone, e una serie di preti che qui nella Bassa, ma forse anche da altre parti, erano il punto di riferimento di tutto il paese e in genere, soprattutto nella nostra zona, avevano come avversario il sindaco, che di solito era abbastanza rosso. Insomma, vedete, da un fatto funesto, negativo, cioè il fallimento del negozio di biciclette, nasce qualcosa che è destinato a contribuire al successo di Giovannino come scrittore. E non c'è solo questo episodio delle ripetizioni, il fatto che lui deve guadagnare qualcosa per poter arrivare almeno alla licenza liceale e dopo qualche lavoretto saltuario, e viene chiamato dall'amico Cesare Zavattini, che nel frattempo è diventato caporedattore della Gazzetta di Parma. Zavattini, per aiutarlo, lo propone in redazione come correttore di bozze. In realtà Giovannino non ha nessuna esperienza, non è un giornalista, ma entra in quel mondo che lo vedrà eccellere. Parte dal primo gradino, dalla gavetta, però nel giro di poco tempo la sua intelligenza fervida, la sua fantasia lo portano a fare carriera. Prima cura la cronaca nera, poi arriva la cronaca cittadina, e siccome viene pagato un tot a riga e lui deve inventarsele le notizie per cercare di scuotere la tranquillità della monotonia della vita di provincia, e allora si sviluppa quella sua straordinaria creatività, quella capacità di trasformare la realtà, di raccontarla in chiave umoristica, di spettacolarizzare la vita, sempre però il tutto filtrato attraverso il suo grande cuore. E Giovannino Guareschi diventa una firma importante della Gazzetta di Parma, comincia a scrivere articoli, novelle, cura rubriche, però è anche un illustratore abile, fa disegni satirici anche su temi politici. Nel 1934 deve partire per il militare, prima va a Potenza e poi viene trasferito a Modena, dove viene promosso sottotenente di complemento. Nel 1936, finito il servizio di leva, riceve una nuova proposta dall'amico Cesare Zavattini, che nel frattempo si è trasferito a Milano alla Rizzoli. Zavattini gli propone di entrare a far parte della redazione di un giornale umoristico che sta per nascere. Il giornale si chiamerà Il Bertoldo. E in quegli anni sta andando per la maggiore un altro notissimo giornale satirico, il famoso Marco Aurelio, edito a Roma. Ci scrivono nomi importanti del giornalismo, ci passerà anche Federico Fellini, che esordirà come illustratore, e poi Ettore Scola, Marcello Marchesi, Castellano e Pipolo, Achille Campanile, insomma tante firme illustri dell'epoca. E visto il grande successo del Marco Aurelio, la Rizzoli vuole contrapporre qualcosa a Milano. Viene incaricato Zavattini di questa, diciamo, contromossa, e lui chiama con sé i suoi amici più fidati, quindi anche Giovannino Guareschi. Lui arriva come illustratore e il primo numero esce nelle edicole il 14 luglio del 1936. Si afferma subito per uno stile innovativo, rivoluzionario per la vignettistica italiana. Ci sono già le prime differenze: il Marco Aurelio è apertamente antifascista, fa una satira politica chiara. Il Bertoldo è diverso, si mantiene fuori dai giochi di potere, fa un umorismo surreale, agisce sulle coscienze in maniera sottile, non prende posizione, però le firme sono di grande livello, c'è Oreste Del Buono, c'è Sergio Tofano, Italo Calvino, c'è Giaci Mondaini che è il padre di Sandra Mondaini. A Milano Guareschi è arrivato assieme alla sua compagna, si chiama Ennia Pallini, lui l'ha conosciuta a Parma in un negozio di calzature, è una ragazza bellissima, chioma rossa, occhi fiammeggianti, carattere volitivo, lo ama molto perché sfida le convenzioni dell'epoca, perché lo raggiunge a Milano senza essere ancora sua moglie. Poi si sposeranno 4 anni dopo, nel febbraio del 40. Ascoltate il divertente resoconto del matrimonio descritto da Guareschi nel 67 sulle pagine della rivista Oggi. Il sacro rito, se così si può chiamare, avvenne a Milano in Santa Francesca Romana, immediatamente dopo un matrimonio ricco. La chiesa era ancora piena dei fiori di prima, l'altare sfavillante di ceri e uno sfarzoso tappeto rosso era disteso lungo tutta la navata fino alla porta. Come entrammo, si udì un urlo e piccoli gruppi di chierichetti si scatenarono. Chi faceva sparire i fiori, chi spegneva i ceri, chi arrotolava il tappeto. Fu un matrimonio lampo, con comandi perentori. In piedi, in ginocchio, seduti, anello. Ricordo che a un certo momento l'organista, che era pagato dal matrimonio precedente, attaccò la marcia nuziale, ma un urlaccio del celebrante lo fece immediatamente zittire. Se avessi un filmetto della cerimonia, sarebbe un pezzo da antologia. Ebbene, una cerimonia particolare, buffa, comunque porta bene, perché Ennia e Giovannino rimarranno sposati tutta la vita e vedremo il ruolo decisivo che lei avrà nelle scelte coraggiose del marito. Dopo pochi mesi, peraltro nel 40, nasce il primo figlio, Alberto. Intanto Guareschi comincia a fare carriera, diventa caporedattore del Bertoldo, mentre Zavattini lascia la rivista, ha dei contrasti con la proprietà, viene sostituita la direzione da Giovanni Mosca. Nel settembre del 43 un bombardamento anglo-americano distrugge la sede della Rizzoli e il Bertoldo viene chiuso, però sta per arrivare uno sconvolgimento ancora più grave. Guareschi sta per sferrare il primo di una lunga serie di colpi d'ala, sta per pagare caro il suo carattere ribelle, la sua incapacità di stare zitto. C'è un concatenarsi di eventi che lo porteranno a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Vivrà un'avventura che cambierà per sempre la sua vita e influenzerà notevolmente la sua incredibile carriera di scrittore. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Il nostro straordinario protagonista di oggi è un grande uomo che troppi hanno dimenticato, Giovannino Guareschi. È conosciuto universalmente per essere il padre di Peppone e Don Camillo, la serie divertentissima di racconti e poi di film, la grande trasposizione cinematografica con Gino Cervi e Fernandella, fatto diciamo il resto, è stata la ciliegina sulla torta. Però in realtà Guareschi, pur essendo uno degli scrittori italiani più letti e venduti in assoluto in tutto il mondo, pur essendo anche uno scrittore, un vignettista, un giornalista di immenso spessore, non è ricordato come andrebbe ricordato, e direi soprattutto perché è uno che non ha esitato a difendere le sue idee, è sempre andato controcorrente, non si è piegato al pensiero unico e ha pagato per tutto questo un prezzo molto caro. Non si è mai asservito al potere, è stato fedele fino all'ultimo istante di vita alle sue idee, che erano molto personali. E siamo arrivati in un momento cruciale della vita di Giovannino Guareschi. Siamo nell'ottobre del 42, lui ha appena ricevuto una notizia drammatica che poi si rivelerà falsa, cioè che il fratello è morto sul fronte russo. Lui si dispera, si ubriaca sotto l'effetto dell'alcol, comincia a inveire in pubblico contro Benito Mussolini, che accusa della tragica morte del fratello, e la polizia lo arresta. Mi portarono in galera. Io capivo ben poco perché ero sbronzo marcio. Un mio conoscente aveva letto che in casi simili bisognava ricorrere all'ammoniaca. Solo che invece di farmela annusare, me la fece bere. La conseguenza fu una spaventosa ulcera che mi si scatenò e che poi non mi ha mai abbandonato. Mi ricoverarono in un ospedale militare, dove ho passato buona parte del servizio di richiamo, al quale fui condannato per aver inveito contro il duce. Insomma, parte dalla parte sbagliata. Guareschi è ubriaco, si arrabbia con Mussolini, che ritiene colpevole della morte di un fratello che poi in realtà per fortuna tornerà a casa sano e salvo l'anno dopo. Guareschi nel 42 a 33 anni viene condannato a rientrare in servizio nell'esercito, solo che dopo l'8 settembre del 43, a seguito dell'armistizio firmato con gli anglo-americani, viene catturato dai tedeschi che improvvisamente sono diventati nemici e si rifiuta di collaborare con loro, pur sapendo bene a cosa andrà incontro. Così, assieme a altri soldati italiani, 600.000, viene deportato in un campo di concentramento, prima in Polonia e poi in Germania, dove rimarrà fino all'aprile del 45. Quindi abbiamo inizialmente, insomma, un Guareschi prima antifascista, o quantomeno che parla male di Mussolini da ubriaco, e poi portato in un campo di concentramento dai nazisti. Questa segniamocela, perché dopo accadrà ben altro. Comunque, nel frattempo, lui in questo lager scopre di avere doti che neanche sospettava di possedere, mette a frutto il suo talento di giornalista, aiuta i compagni a non lasciarsi andare alla disperazione, li tiene aggrappati alla vita, racconta delle favole legate alla quotidianità, li porta nelle loro case col pensiero, con la forza della sua fantasia. Insomma, crea in tutti un desiderio di sopravvivenza per tornare a casa, per riabbracciare i propri cari. Peraltro, mentre lui è prigioniero, il 13 novembre del 43 nasce la sua secondogenita Carlotta, che poi lui soprannominerà la passionaria. Lui, non potendola abbracciare, le dedica una splendida e toccante canzone umoristica. Peraltro i figli di Giovannino Guareschi, Alberto e Carlotta, si sono occupati per anni con intelligenza, con sensibilità, di far conoscere le opere del padre, e hanno dichiarato in diverse occasioni che il libro che meglio spiega chi fosse veramente Giovannino Guareschi è Il diario clandestino, che è una bellissima opera che ha pubblicato nel 49, scritta durante la prigionia. È un diario intriso della solita verve umoristica di Guareschi, però carico di tutta la sua grande umanità. All'epoca della sua pubblicazione, peraltro, ebbe un successo enorme. Accadde che io, come milioni e milioni di altre persone, mi trovai invischiato nell'ultimo grosso pasticcio che ha rattristato il nostro disgraziatissimo mondo. Adesso io non ricordo bene come siano andate le cose. Chi partecipa ad una guerra ha diversi compiti da svolgere nel piccolissimo settore a lui affidato e non conosce l'andamento generale. Non sa se sta vincendo o perdendo e alla fine se ha vinto o se ha perso. In questo caso, poi, il pasticcio risultò così grosso e complicato che oggi, a distanza di 5 anni, la gente sta ancora litigando su chi ha vinto e su chi ha perso, su chi aveva torto e chi ragione, su chi erano gli alleati e su chi erano invece i nemici. A questo si aggiunse la guerra civile, che fece schierare i padri contro i figli, le mogli contro i mariti, il nord contro il sud, l'est contro l'ovest, in un mondo di pazzi. Mi ritrovai italiano alleato dei tedeschi all'inizio e prigioniero dei tedeschi alla fine. Gli americani nel 43 mi bombardarono la casa e nel 45 mi vennero a liberare e mi regalarono il latte condensato. Per quello che mi riguarda, la storia è tutta qui. Eh già, è stato proprio così. Prima le bombe, poi il latte condensato. Questo erano gli americani in quegli anni. E comunque, Giovannino Guareschi torna dalla prigionia, arriva a Parma nel settembre del 45. È magro, è scavato, ha vissuto una esperienza terribile, un altro uomo. Però ha fatto tutto con lo spirito giusto, con l'unico spirito possibile in quei casi, credo. È quello che è animato da una speranza, dalla voglia terribile di tornare. Lui torna, riabbraccia la moglie Ennia, il figlio Alberto, finalmente stringe a sé, diciamo, la piccola Carlottina, l'ultima nata. Pensa già al suo futuro, riprende la strada per Milano, trova tutto il gruppo del Bertoldo pronto a aspettarlo nel dicembre del 45, fonda assieme a Giovanni Mosca e a Giaci Mondaini un nuovo settimanale d'opinione, sempre edito da Angelo Rizzoli. Si chiama Candido. Candido è molto diverso dal Bertoldo. Intanto si schiera apertamente, è un giornale che rispecchia l'ideologia di Giovannino Guareschi, che è dichiaratamente monarchico, totalmente anticomunista, è uno che sostiene, e non è l'unico, in realtà l'hanno sostenuto in molti, che il 2 giugno del 46 la Repubblica abbia vinto grazie a dei brogli elettorali che hanno ribaltato il voto popolare. Intanto alle elezioni politiche del 18 aprile del 48 c'è da combattere, almeno dal suo punto di vista, c'è da combattere l'avanzata delle forze socialiste e comuniste, e arriva la famosissima frase che poi lui riprenderà in Don Camillo e Peppone: il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Dalle pagine di Candido, Giovannino Guareschi fa satira di costume, ma fa anche satira politica e non solo. Denuncia gli omicidi compiuti dai partigiani nel Triangolo della Morte, l'area geografica compresa tra Castelfranco, Mirandola e Carpi, ma anche di altre zone nelle quali tra il 43 e il 49 si registrò un numero elevato di uccisioni a sfondo politico compiute dai partigiani, soprattutto naturalmente quelli militanti di matrice comunista. Si parlò di 4.500 morti causati da chi voleva a parole ripulire l'Italia dai fascisti, ma in realtà voleva effettuare vendette personali oppure eliminare quelli che venivano considerati i nemici di classe, cioè gli ostacoli alla rivoluzione comunista. E questa denuncia, ma anche la profonda fede cattolica, l'attaccamento alla monarchia, il fervente anticomunismo, fanno di Guareschi uno dei più acuti critici del Partito Comunista Italiano. E sono famose le sue vignette che iniziavano sempre con Controordine Compagni. Non so, c'era una serie di persone che stavano rincorrendo degli scarafaggi e c'era la frase Controordine Compagni, la dicitura eliminare gli insetti contiene un errore di stampa e va letta con eliminare gli inetti. Quindi c'erano tutte queste persone dalla fascia non intelligente che pestavano gli scarafaggi, perché così aveva detto il partito. I militanti comunisti nella satira di Guareschi vengono ribattezzati trinariciuti. Nel mio concetto base, la terza narice ha una sua funzione completamente indipendente dalle altre due. Serve di scarico, in modo da tener sgombro il cervello dalla materia grigia, e permette nello stesso tempo l'accesso alle direttive di partito che debbono, appunto, sostituire il cervello, il quale cervello appartiene, oramai lo si vede, ad un altro secolo. Naturalmente a Togliatti Guareschi non piace, lui lo dice apertamente, lo definisce l'uomo più cretino del mondo, tre volte idiota moltiplicato per tre, e il giornalista milanese che ha creato il personaggio con tre narici, insomma Togliatti è punto sul vivo, gli giura vendetta, e la vendetta non tarda a arrivare. Nel marzo 48 Guareschi, con l'uscita del suo primo libro sulla saga Mondo Piccolo, Don Camillo, è diventato famosissimo, tutti parlano di lui in Italia, all'estero, è il fenomeno del momento. Immaginate, non so, l'autrice di Harry Potter alle prese però con un avversario politico. Sì, perché lui ha successo, ma viene considerato il pericolo pubblico numero uno. L'Italia in quel momento sta andando sempre più a sinistra, soprattutto, lo vedremo per decenni, soprattutto per quanto riguarda l'egemonia culturale, e quella classe politica vede in Guareschi un personaggio pericoloso e si aspetta il primo passo falso di Guareschi, che naturalmente, dato il carattere, non tarda a arrivare. C'è una vignetta apparsa su Candido del 18 giugno 1950, il titolo è Al Quirinale, si vede il presidente della Repubblica Luigi Einaudi che passa in rassegna invece dei corazzieri due file di bottiglie, perché Einaudi produceva un nebbiolo sulle cui etichette peraltro era messa in evidenza la sua carica pubblica. Bene, Guareschi per questa vignetta viene condannato a 8 mesi di carcere per vilipendio al capo dello Stato. Essendo incensurato, per il momento in prigione non ci va. Le porte del carcere si aprono per Guareschi nel 1954. È stato condannato su denuncia di Alcide De Gasperi, capo del governo, perché ha pubblicato due lettere risalenti al 44. In queste lettere De Gasperi avrebbe chiesto agli anglo-americani di bombardare i centri nevralgici di Roma, ovviamente per abbassare ancora di più, insomma, il morale della cittadinanza e per aumentare la resistenza nei confronti dei fascisti e dei tedeschi. Il fatto ovviamente è gravissimo, sarebbe per De Gasperi una responsabilità morale atroce. Peraltro non si saprà mai se le lettere fossero vere o un falso, come asserì De Gasperi. Non furono accettate le perizie calligrafiche effettuate che avevano dato le lettere per buone. Si considerò come prova attendibile, pensate, il giuramento di De Gasperi sulla Bibbia. Insomma, direi un processo farsa che porta Guareschi in carcere per 409 giorni. A tutt'oggi è l'unico giornalista dalla nascita della Repubblica Italiana che ha scontato una pena detentiva in carcere per diffamazione a mezzo stampa. Con tutto quello che è successo negli anni successivi, nessuno è mai andato in galera, solo Guareschi. Lui viene recluso nel carcere di San Francesco del Prato di Parma. L'ottobre del 45, l'8 ottobre, scrive dal carcere a De Gasperi: per rimanere liberi bisogna, ad un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione. Eccellenza, il giorno in cui io uscirò, lei non sarà più presidente del Consiglio, ma io sarò ancora Guareschi. Niente male come frecciatina. Lui ha la possibilità di chiedere più volte la grazia, ma naturalmente non la chiederà mai. Non ci stupiamo, sarebbe stato un atto lontano dal suo personaggio, dal suo rigore morale. Uscito di prigione, Guareschi si stabilisce a Roncole di Busseto, il paese natale di Giuseppe Verdi. Continua a perseguire in maniera inalterabile i suoi ideali. Dà le dimissioni da direttore di Candido del 57, rimanendo collaboratore, cessa ogni attività nel 61 per un dissidio insanabile con i Rizzoli. Insomma, non è un uomo dal carattere facile, ma andato via Guareschi, poco dopo verrà chiuso il Candido senza di lui, insomma non aveva più ragione di essere. Nel 61 Guareschi ha un infarto, si riprende a fatica perché insomma lui ha un fisico possente, ma è molto provato anche dagli anni di prigionia, che certo non hanno giovato alla sua salute. Giovannino Guareschi muore a 60 anni il 22 luglio 1968 per un arresto cardiaco mentre era nella sua residenza estiva di Cervia. Ai suoi funerali la bara è avvolta dalla bandiera monarchica di Casa Savoia e naturalmente le autorità del mondo politico e intellettuale non si presentano, si tengono ben alla larga da quel funerale. Ci sono solo Enzo Biagi e Enzo Ferrari. La Rai, cosa fa la Rai? Gli dedica pochi secondi, lui che era, in quel momento era lo scrittore italiano più venduto e letto al mondo, e l'Unità si distingue come sempre. Il commento è questo: malinconico tramonto dello scrittore che non era mai nato. E la Gazzetta di Parma commenta così: l'Italia meschina e vile ci ha fornito l'esatta misura della sua insensibilità morale e della sua pochezza spirituale, per come Guareschi viene trattato appena scompare. Noi preferiamo chiudere con le parole dei figli Alberto e Carlotta: 60 anni, troppo pochi per morire, ma siamo convinti che quello che conta non è il numero degli anni vissuti, ma il modo in cui sono stati vissuti. E nostro padre li ha vissuti nel modo giusto, continua a vivere nelle sue opere, perché ancora oggi riesce a regalare un sorriso con i suoi libri e con i suoi film. Giovannino Guareschi, un uomo libero. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.